Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sono all'estero, a Lussemburgo, e il mio legame con l'Italia è assicurato da un'intangibile rete digitale. Vivo bene qui. È un bel paese per crescere i propri figli, per lavorare con dignità, per vivere una costante sensazione di sicurezza. Sono Paola, ho 50 anni e lavoro come impiegata in uno studio legale e vivo a Lussemburgo con Massimo, mio marito, e Stanislav, mio figlio di 10 anni. Oggi, 30 di settembre 2013, parte il nuovo palinsesto di Radio 24. Noi continuiamo sempre alla stessa ora, anche se un po' più brevi. E sembra fatta apposta, però è nei giorni come questi, quelli in cui l'attualità è piena di dinamiche che abbiamo già visto o di parole che abbiamo già sentito, di luoghi comuni che comunque ritornano sempre. È nelle giornate come queste che penso, e sono sempre più convinto, che raccontare storie, raccontare le storie delle persone, che abitualmente non fanno notizia, ma anche quelle che fanno notizia, raccontare le storie delle persone sia ancora più importante. Le storie sono azioni e muovono le vite di tutti noi. E raccontarle è un atto politico, perché non c'è nulla di più politico di dare un'altra possibilità, dare un altro punto di vista, dire che le cose si possono fare così, ma anche così e così. E addirittura alle volte le cose si possono anche non fare. Le storie sono esempi, sono alternative, fanno conoscere le vite degli altri. E già questo ci fa immaginare che non siamo soli su questa terra, che non siamo soli, ma soprattutto che ci sono altre vie possibili, sempre. Oggi, 30 settembre, noi continuiamo a raccontare. Voi, se volete, continuate a scrivere. Sono le 16:10 minuti, buongiorno a tutti, questa è Radio 24, il programma è sempre Voi Siete Qui, come avete capito noi continuiamo dalle 16 tutti i giorni, sempre in diretta, solo semplicemente fino alle 16:30. Voi siete qui, @radio24.it, quindi è sempre il nostro indirizzo mail per raccontarci dei pezzi della vostra vita. Quello che chiediamo ormai da due stagioni che continuiamo a fare è di mettere su carta o su schermo, come preferite, o su file, in una pagina, un episodio della vostra vita che sia proprio un pezzo di storia, che in qualche modo racconti qualcosa di voi, di un sacco di anni fa o di ieri sera, di lavoro o d'amore, di viaggio o di permanenza, quello che volete, ma che in qualche modo vi rappresenti. Voi siete qui, @radio24.it. E come sempre capita, c'è un esempio nuovo oggi ed è la storia di Paola. La storia di Paola ha a che fare un po' col lavoro, un po' col viaggio, un po' con la permanenza, perché racconta di partire, di andare in un posto che non è nemmeno tanto lontano da casa nostra, perché lei lo dice, sta a, di fatto 800 km da casa sua e dal suo Piemonte, però comunque all'estero. E lei ha un modo molto particolare per sentirsi italiana, per rimanere italiana. E oggi parliamo di questo, parliamo di tutti i modi che avete messo a punto, che mettete in pratica, quando vi trovate all'estero e in qualche modo volete provare a continuare a sentirvi italiani. 349-238-6666, c'è anche un profilo Facebook e un profilo Twitter che sono Voi Siete Qui R24 per Twitter e Voi Siete Qui Radio 24 per Facebook, banalmente. Finca, non so se è un nome questo, Finca Los Vientos. No, questo sarà un nomignolo di Facebook, questo. Ascolto il TG e sono felice di non essere più in Italia. E va bene, qui si parla d'altro, però si parla invece di provare a continuare a sentirsi italiani. Caterina, radio e televisione italiane. O semplicemente guardo un film in lingua. Simone, guardo le vie della mia città, Grosseto, con Google Street View. Che è proprio un modo per non solo per sentirsi a casa, ma per guardarla a casa. E poi c'è Francesca, che è una nostra conoscenza, che o meglio, che diciamo è la moglie di una nostra conoscenza, perché è la moglie di Alex Bellini, che è stato qui ospite da noi e che appunto ne sa qualcosa di andarsene. Loro due adesso non stanno più qui in Italia, stanno in Inghilterra per motivi loro, di professionali e personali, e scrive: la mozzarella di bufala che si fa mandare il negozietto all'angolo tutti i mercoledì. Lì entri in una piccola Italia, baci, abbracci, chiacchiere, caffè e consigli di cucina. Ovviamente tutto con un accento campano che il proprietario non ha perso, nonostante viva in Regno Unito da 20 anni. 349-238-6666, il modo in cui vi sentite a casa o provate a sentirvi a casa quando siete all'estero. Noi continuiamo a raccontare. Questa è la prima puntata del nuovo corso di Voi Siete Qui. I miei uomini, il piccolo e il grande, sono in montagna a sciare. Io in città a lavorare. In ufficio la mia capa mi ha lasciato la barra del timone ed è partita per le Alpi svizzere. Così io riempio i solitari silenzi di queste giornate particolari con Radio 24. Peraltro già mia affezionata campagna compagna in ogni momento libero. Sono all'estero, sono a Lussemburgo e il mio legame con l'Italia è assicurato da un'intangibile rete digitale. Vivo bene qui, è un bel paese per crescere i propri figli, per lavorare con dignità, per vivere con una costante sensazione di sicurezza, di benessere. C'è tanto verde per riempire gli occhi e ossigenare i polmoni. La città è piccola, gli spostamenti sono agevoli. Siamo finiti a Lussemburgo per motivi di lavoro di mio marito Massimo, che si è trasferito qui. È un funzionario dell'Unione Europea. E l'abbiamo seguito ovviamente tutti e tre insieme e siamo qui dal 2009. Mio marito dice che sono la più entusiasta della famiglia. E forse è la verità. Ho trovato un luogo piacevole dove vivere e ci sto bene, a 800 km dal natio Piemonte. Sono di natura positiva e tendo sempre a mettere in evidenza il lato migliore delle cose. Ma sono davanti a un foglio bianco. Mi sono volutamente regalata del tempo prezioso per lasciare che i pensieri fluiscano senza freni, in assoluta franchezza. Così d'un tratto la mia mente è volata lontano, riportandomi ad un'immagine familiare della mia terra. In una fredda giornata d'inverno, proprio come questa, sono in auto, la pianura si stende davanti agli occhi, bianca di brina. Il cielo è blu, terso. Sullo sfondo le montagne innevate, tra cui riconosco la sagoma inconfondibile del Monviso. Una lacrima riga la mia guancia e finalmente riesco ad essere profondamente sincera con me stessa. È pura e genuina nostalgia. E come tutte le confessioni, ha un effetto liberatorio. E ammetto che il fatto di ascoltare la radio tutti i giorni, di volermi sentire ancora parte attiva della mia nazione, facendo una scelta elettorale meditata, per esempio, è un sintomo di questo attaccamento, che mi sto persuadendo, è del tutto normale. Così, senza vergogna, mi sono guardata per intero le prime due serate di Sanremo. Sì, anche questo è essere italiani. Siamo emigrati a Lussemburgo per scelta, stimolata da un'inaspettata offerta di lavoro per mio marito. Per varie ragioni volevamo cambiare qualità della vita e ci siamo riusciti. Volevamo vivere quell'esperienza di vita all'estero che da giovani mio marito e io avevamo sognato senza poterla realizzare. Il grande passo è stato compiuto quando io avevo 46 anni, mio marito 47, e ci siamo detti tante volte adesso o mai più. Ripensandoci forse abbiamo avuto anche coraggio. Io sicuramente ci ho aggiunto un pizzico di leggerezza e di incoscienza, ma sono fatta così. Il Lussemburgo mi piace perché è una piccola città, però è una capitale europea, è una città molto internazionale, l'80% dei residenti sono stranieri, è un essere all'estero ma non sentirsi troppo all'estero. Mi piace perché è piena di verde, di alberi, è una città veramente a misura d'uomo. Si è aperto davanti a noi un mondo totalmente nuovo e il cambiamento ha sempre una sua connotazione positiva. La nostra casa ora è qui. Ho anche un lavoro. Abbiamo intessuto le nostre nuove reti di relazioni interpersonali. Qui coltiviamo le nostre passioni. Ma tutto questo non esclude quel sentimento di velata nostalgia che prima citavo. Se dovessi rappresentarmi con un'immagine, disegnerei una di quelle bellissime piante di ulivo che vengono trapiantate, già molto vecchie, già nodose, nei giardini delle ville borghesi, magari molto lontano dal loro habitat naturale. Quegli ulivi attecchiscono e prosperano, sono belli e vigorosi, ma mi piace immaginare che sognino di sentire ancora, tra le loro fronde, la brezza che soffia dal mare. Per questo torneremo un giorno tutti insieme a Chelyabinsk, in Russia, dove Stanislav, mio figlio, è nato. Ma questa è un'altra storia. We'll be right back. C'è un adagio che dice: si è più nazionalisti quando si è fuori dalla propria nazione che quando ci si vive dentro. Non è del tutto vero perché è un luogo comune, ed è un po' vero proprio perché è un luogo comune. In fondo, a questo servono le comunità di espatriati, no? A incontrarsi tra persone che parlano la stessa lingua, che hanno gli stessi gusti, a cui piacciono gli stessi sapori, lo stesso tipo di musica. Non sono sicuro, ma immagino che esistano comunità italiane all'estero che si riuniscono per guardare il Festival di Sanremo, proprio come fa Paola, però da sola. Le comunità italiane in giro per il mondo spesso vivono, o almeno sono nate, in quartieri delle città che poi vengono definiti dappertutto Little Italy, ovunque. Quella più nota però si trova a New York, a Manhattan, per l'esattezza, ed è stato il primo luogo che gli italiani hanno colonizzato quando sono arrivati negli Stati Uniti. Oggi però la vera Little Italy di New York non è più quella Little Italy, che ormai è schiacciata da Chinatown ed è poco più che un parco giochi per turisti che possono scegliere se mangiare pizza e spaghetti in ristoranti con dubbio gusto, sono stati chiamati Benito 1, 2 e 3. La comunità italiana che rappresenta l'Italia, l'ultima ondata migratoria d'Italia, quella del secondo dopoguerra e che quindi ha tra le sue fila ancora persone di prima generazione, cioè persone che sono cresciute in Italia e poi sono andate a vivere a New York, sta molto più a nord della vecchia Little Italy. Sta nel Bronx, all'altezza di una strada che si chiama Arthur Avenue. Ci sono stato l'ultimo giorno dell'anno di 6 o 7 anni fa. Ero lì perché lavoravo per un'altra radio e volevo comprare del cibo italiano per la cena di Capodanno. Lì i negozi hanno i prodotti italiani, i salami sanno di salame, il formaggio non è di plastica e gli anziani dietro i banconi parlano meglio l'italiano dell'inglese. Quello è un posto in cui le persone conoscevano la situazione dell'Italia, di questo paese, meglio di me, che ci vivo, e mi consigliavano ad esempio come cucinare la carne o la pasta. Quando uno di loro mi chiese che lavoro facessi e io gli risposi che lavoravo per la Rai all'epoca, lui si arrabbiò molto dicendo che era da mesi che vedeva male Rai International e non serviva nulla a spiegargli che non mi occupavo delle frequenze. Poi incontrai un gruppo di signori che era molto arrabbiato per un altro motivo. Non perché vedeva male la TV, ma perché si diceva che il consolato italiano della via, che era nato proprio per preservare la comunità italiana, stava chiudendo. E questo significava che avrebbero dovuto spostarsi per rinnovare il passaporto o ottenere alcuni documenti. E questo, diceva uno di loro, allontanerà i più giovani dal loro paese d'origine. Alla fine comprai della pasta fatta a mano, della passata di pomodoro, del ragù e del parmigiano. E preparai delle lasagne per la cena dell'ultimo dell'anno che passai con 5 amici italiani, che in fondo è un po' come guardare il Festival di Sanremo da soli a Lussemburgo. Circondata dal verde, Paola, la protagonista e l'autrice della storia di oggi, nella foto che ci ha mandato, ha su una giacchina tipo per passeggiare, immagino, ha una borsa tracolla, degli orecchini di perle importantissimi, direi, e me la immagino, anche se non è così, ed eventualmente glielo chiedo tra poco durante la telefonata, me la immagino in uno splendido parco del Lussemburgo. Pronto, Paola? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Tu? Io benone, grazie. Dove ti trovi in questo momento? Beh, in questo momento mi trovo al lavoro, non in un bellissimo parco, purtroppo. Ma il parco però dietro di te nella foto che ci hai mandato e che è sul sito ovviamente è del Lussemburgo, vero? Dimmi di sì. Per la verità sono in centro città Lussemburgo, volevo fare una cosa più panoramica, però sono proprio in centro davanti a una statua che si chiama Gellefra. Però c'è questo bellissimo tipo canyon, una valle interna alla città piena di verde, stupendo. Cioè c'è un canyon nel centro del Lussemburgo? Sì. verdissimo, pieno di piante. Verdissimo, sì, esatto. Ma quindi, scusami, perché uno quando pensa al Lussemburgo, forse perché vedo troppo Iacona e Report, però uno si immagina semplicemente delle vie in cui ci sono affisse delle, che so io, delle aziende fittizie che in realtà hanno sede, che ne so, alle Bahamas o alle Cayman. Invece la città è una bella città, è un bel posto dove vivere, tu dici? A me piace molto, sono cattiva letteratura, diciamo. Tu di dove sei esattamente, Paola, per capire da dove vieni? Sono di Torino, Ok, sì. Sei torinese e quindi, diciamo, in sé Torino è una città abbastanza quieta. Sì, sì, in realtà l'ultimo periodo della nostra vita in Italia abbiamo passato a Milano. Ok, che cui... è un po' meno quieta ed è soprattutto meno bella di Torino, però insomma vivevate in una città in cui c'era movimento e siete andati in una città in cui il movimento c'è e non c'è. Sai che veramente non ho idea di come sia Lussemburgo. Allora, Lussemburgo è una città di... Lussemburgo città di per sé è una città di 100.000 abitanti circa. Ah, è più piccola di Novara, Lussemburgo. È piccola, però è una capitale, quindi ha delle cose che le piccole città normalmente non hanno, come un teatro d'opera, una grande sala di musica sinfonica, una stagione, quindi a noi piace molto la musica, di livello elevatissimo e molto internazionale, perché appunto... il fatto che dicevi che l'80% è straniera, cioè si parla l'inglese sostanzialmente. Francese. Francese. Francese è la lingua, diciamo, ufficiale per lussemburghesi e stranieri, poi c'è anche il lussemburghese e poi comunque tutti parlano anche l'inglese. E costa tanto la vita? Un po' più cara, sì, è abbastanza cara, diciamo. Cioè un litro di latte quanto viene? Adesso ti prendo alla sprovvista, sembra Ballarò. Quanto costa un litro di latte? Vediamo se voi sapete com'è il paese reale. Allora, è più o meno cara come Milano, diciamo. Cioè 1,30 euro, 1,50 euro. Sì, sì. E una cena, una pizza, quanto costa? E quelle sono abbastanza care, i ristoranti sono abbastanza cari, cioè le cose dove c'è della mano d'opera sono abbastanza care perché gli stipendi sono un pochino più alti. Sono un po' più alti. Invece raccontami com'è lasciare un paese a 46 anni. È strano, bisogna essere un po' incoscienti, forse vedere appunto, essere un po' positivi, un po' voler lasciarsi le cose, buttarsi nel... Beh, voi però non siete partiti all'avventura, no? Nel senso che tuo marito aveva un'offerta di lavoro, tu invece l'hai trovato lì il lavoro? Io l'ho trovato qui, sì. Ed è difficile trovare un lavoro a Lussemburgo? Non lo so, io ho avuto abbastanza fortuna, mi sono un po' adattata all'inizio, ho fatto dei lavori con un'agenzia interinale e... Poi ho mandato dei curriculum leggendo gli annunci sul giornale e l'ho trovato un lavoro, poi non so, magari è il classico colpo di fortuna. Beh, questo non lo potremo sapere. E poi ti saluto Paola, fammi uno spot per il Lussemburgo, perché uno dovrebbe venire a vivere in Lussemburgo? Ah, dunque. Mi basta questo, Paola, ti ringrazio molto, in bocca al lupo e vabbè, mandaci un racconto alla prossima edizione di Sanremo a questo punto. Grazie. Ciao, grazie, ciao, grazie ciao, mille. Ciao, grazie. 349-238-6666, in quest'ultima edizione in cui stiamo per chiudere, abbiamo ancora qualche messaggio da leggere, ed è quello di Gabriella, ad esempio, che dice: quando raggiungiamo il mio compagno che lavora e vive in Serbia, le domeniche cucino aiutata anche dai ragazzi tutte le ricette della tradizione italiana. Pasta al forno, piadine, e anche Davide, che qui non cucinava, diventa matto per fare la pizza. Niente, si parla di cibo, canzoni italiane, calcio. Il calcio non l'hanno ancora citato. La mozzarella l'abbiamo raccontata, certo, quella di Francesca, però c'era un messaggio che è arrivato proprio al volo su Facebook che dice: caro Matteo, ieri in Scozia, per un matrimonio italo-cinese, il tavolo italiano amico dello sposo, per sentirsi e mostrarsi italiano nella maniera più stereotipata possibile, ha fatto casino e gesticolato oltre il normale costume nostro, perché lo stereotipo esagera, sì, ma un po' ci prende e ci accomuna. Effettivamente un po' questa roba viene di fare più di quanto non sei, no? Più di quanto tu magari non abbia voglia, perché ma dai, in fondo no, e in fondo siamo italiani. 349-238-6666, ma soprattutto voi siete qui, @radio24.it. Io vi ricordo che questa trasmissione la potete scaricare, tra l'altro in questa versione più breve ve la sciroppate in pochissimo, anche in podcast. Raccontate storie e riascoltatele scaricando il podcast di Voi Siete Qui. Grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina e a Paolino Corleoni. La storia di oggi era di Paola e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Stefano. Vivo in Abruzzo. La storia di domani è la mia e parla della musica del mercoledì sera. Questa è la mia storia. Io sono qui.